Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, una trasmissione che cade in questo periodo magico dell'anno tra due feste così importanti per la nostra Repubblica Italiana, ovvero sia il 25 aprile, festa Liberazione, e il 1 maggio, festa del lavoro. Allora celebriamo a modo nostro queste celebrazioni con due lavori. Il primo è un fumetto disegnato e scritto da Giorgio Franzaroli, orrido familiare, e il secondo invece è un libro illustrato, scritto e disegnato da Sonia Maria Luce Possentini. Sono due storie familiari. Due storie familiari che parlano di famiglie italiane all'interno della guerra, la canzone del domani, o nell'immediato dopoguerra, l'orrido familiare, quando ancora tante famiglie erano le prese con la guerra contro la povertà. Quindi temi del lavoro, della povertà, della liberazione, dell'oppressione fascista nazista sono in questi due racconti familiari che oggi vi presentiamo, cominciando con Giorgio Franzaroli nel suo orrido familiare, raccolto nell'intervista da William Piana. Con Giorgio Franzaroli, vignettista del Fatto Quotidiano, nonché esponente del CRAP di Radio Città Fujiko, ne approfittiamo per conoscere un aspetto di grafica letteraria per quanto riguarda una specificità personale relativa appunto alla famiglia, ma in questo caso alla famiglia di Giorgio, che saluto, che è qui con noi. Buongiorno e ben ritrovato, Giorgio. Buongiorno William, buongiorno a tutte e tutti. Di che si tratta? Ma si tratta di una epopea, si può chiamare così, di una saga fumetti involontaria che era nata senza una progettualità di fondo, era nata più che altro come un mio esercizio per tradurre a fumetti, cioè la materia, insomma, dove il terreno dove sono più a mio agio, i ricordi e i racconti della mia famiglia. Una volta presa consapevolezza del fatto che purtroppo non abbiamo avuto quella lungimiranza di chiedere ai nostri nonni di raccontarci le vicende legate alla guerra, quindi quel poco che sono riuscito a setacciare in famiglia dai racconti di mia nonna di quando ero piccolo e successivamente dai racconti di mio padre, ho provato a tradurlo con delle storie fumetti che inizialmente, come dicevo prima, dovevano essere degli episodi, così quasi un album di famiglia a circuito chiuso, e poi è diventata una vera e propria saga che nel frattempo si autoalimentava, dal titolo Orrido Familiare, che è un titolo ideato dalla editrice, da Fabrizia Cileone, che è l'editor e la titolare della casa editrice Pop Edizioni, evocativo perché descrive varie situazioni partendo dalle foibe, perché racconta anche la fase istriana, se vuoi anche la miniera, perché mio nonno fu mandato imperio come confinato politico con l'obbligo di lavoro in miniera in Istria. Poi vabbè, c'è anche questa evocazione di orrido familiare come una specie di speleologia umana, perché mi sono dovuto addentrare in gangli e meandri fino ad allora sconosciuti che piano piano ho cominciato a mettere in luce documentandomi e chiedendo anche conferme di quello che andavo raccontando. E quello che hai trovato ovviamente è stato motivo, oltre che per approfondire del contenuto di storia, di vita vissuta, anche di grande emozione, immagino. Sì, ti devo dire la verità, ho disegnato queste storie già una decina d'anni fa, però c'era una base di fondo che dovevo verificare, per dirla tutta. Vengo da una famiglia ovviamente antifascista. Dico ovviamente, perché insomma le storie che racconto di quello parlano, dell'antifascismo, però non sapevo ancora se di fondo, di base, c'era questa forte convinzione a sinistra, oppure se era subentrata nel dopoguerra, come è riguardato per tante famiglie, per tante persone, no? Una sorta di conformismo. E perciò andavo molto con i piedi di piombo su questo versante, però fino ad allora non avevo delle conferme in merito a quello che andavo a raccontare. E piano piano poi sono usciti fuori documenti, sono usciti fuori i documenti di mio nonno, che non era iscritto al partito fascista, quindi le testimonianze anche dei cugini di mio padre, che erano i figli dei suoi fratelli, che mi hanno confermato varie vicende, e poi alcune documentazioni che a suo tempo ancora non c'erano, perché piano piano sono venute fuori, sono emerse in concomitanza con certi anniversari. Successivamente ho avuto conferme anche di certi periodi storici, riuscendo a collocare molti episodi quasi in modo esatto nel tempo, con una serie di controlli incrociati e interviste anche a figli di partigiani che mi hanno confermato alcuni episodi per quanto riguarda il Novo Benese, perché racconto anche la vicenda, il periodo che è svolto nella linea gotica. Quindi sono arrivato a compiere questa trilogia e letteralmente un 25-30 anni di storie che vanno dal 1925, quando mio nonno scappò dall'Italia nel periodo in cui c'erano le prime rappresaglie all'indomani della vittoria elettorale, vittoria poi per modo di dire, perché sì, infatti fu ottenuta a suon di brogli e di mazzate fino ai giorni nostri. Quindi arrivo fino alla morte di mio nonno verso la fine degli anni 60, e c'è anche una parentesi attuale dove c'è una storia nella storia, perché tutto questo poi è emerso dai discorsi, dalle chiacchiere con mio padre, quindi da certi eventi anche che ci hanno coinvolti emotivamente molto forti, dove sono poi uscite alcune vicende che magari erano ritenute banali, ma poi hanno contribuito a rendere tutto il più vero e creare anche rispetto alle vicende che di solito vengono attite un po' dalla narrazione storica. Certo, e tra l'altro ci stiamo avvicinando al 25 aprile, che avrai raccontato, immagino, attraverso queste testimonianze. Beh, diciamo che arrivo a raccontare la fase immediatamente successiva alla fine della guerra, quindi non c'era ancora questa istituzionalizzazione, sì, della data, sì. Ecco. Però diciamo che spero di aver dato un contributo, non dico storico, perché comunque andando a indagare, a cercare le cose, sono a portata di tutti. Però ho messo in fila una serie di fatti e di circostanze che vogliono essere demolite in questo periodo da questo governo che disgraziatamente è ancora in carica, e quindi vanno contro la narrazione, una narrazione governativa fortemente voluta dalla Meloni, perché non credo di dire niente di nuovo o di insolente, perché figurava proprio nel suo programma governativo quello di dare forza a certe contronarrazioni e a certi rovescismi storici che portano avanti alcune case editrici. C'è un ultimo spottone elettorale che è anche commerciale, che è appunto il libro, la trilogia si chiama Orrido Familiare, composto da tre volumi. Il primo è Orrido Familiare, che dà il titolo alla trilogia, il secondo è Primavera di Bellezza e il terzo è Achtung Minen. Quindi gli argomenti lo raccontano già un po' i titoli. Scrive la Gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridan rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare lotta sindacale, ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare. Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa, chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no. E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinar la testa è comunista. E se non vuoi chinar comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no. E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista. E se non vuoi tirar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol tirar la testa è comunista. Vogliamo la libertà e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. E dopo l'orrido familiare di Giorgio Franzaroli passiamo al libro illustrato di Sonia Maria Lucia Possentini, la canzone del domani, che tratta di questa nonna mondina portata, anzi deportata nel piemontese durante la guerra a raccogliere riso con turni massacranti il lavoro sotto le bombe degli alleati. Dopo lo stacchetto musicale, Simona Sagone di Yucali intervista proprio l'autrice Sonia Maria Lucia Possentini. La canzone del domani di Sonia Maria Lucia Possentini, edita da Orecchio Acerbo. E perché ora? Perché nel 2026 hai deciso che era tempo di raccontare la storia di nonna Arielle e di tutte le altre Mondariso in quel momento particolare della primavera del 44, un anno prima della liberazione del primo voto alle donne. Alle donne. Guarda, non è una cosa pensata, nel senso che poi le storie arrivano a te per condizioni casuali, che il caso non esiste. Lo raccontavo tempo fa e mentre rovistavo in alcune cose del mio vecchio trasloco ho trovato il libro di preghiera di mia nonna, e con dentro i fiorellini, quelli che lei raccoglieva e raccoglievamo insieme, e poi mi arrivano le domeniche del Corriere che lei conservava, quindi come un flash, capito? Cioè, quindi è entrato dentro prepotentemente questa cosa, con la necessità di raccontarlo, raccontare quello che lei mi raccontava, perché è una storia orale che poi fa parte della storia grande, insomma. Il 44 è stato un anno veramente duro sotto tutti i punti di vista, quindi sono state obbligate, no, in qualche modo a partire, anche se mia nonna per necessità, perché aveva fame, aveva un figlio, mio nonno era stato deportato in Germania, quindi c'era veramente la fame, quella vera, quindi lei sarebbe comunque partita, però diciamo che i fascisti entrarono all'interno delle case per una sorta, diciamo così, richiamo militare, no? Venivano chiamate per andare alla raccolta del riso a Vercelli. La maggior parte si rifiutava perché chiaramente in quelle zone c'era la ferrovia, quindi c'erano già gli aerei alleati che cominciavano a buttare bombe, quindi c'era paura tantissima. E però venivano marchiate in un qualche modo, quindi dovevano partire, perché come c'è stata la campagna del grano c'è stata anche la campagna del riso, perché bisognava dare da mangiare alle truppe naziste, che anche loro erano in condizioni di fame, quindi le mondine servivano, come servivano sempre le donne, a doversi piegare a certe dinamiche, insomma. Nella postfazione Paolo Cesare lo dice, che le 8 ore erano già formalmente state conquistate, sì, anni prima. Ma esatto. Perché ancora queste donne dovevano, sì, lavorare dall'alba al buio senza diritti, reclamando almeno dei pasti sufficienti per stare in piedi? Perché c'era un'imposizione da parte del regime fascista che si lavorasse con queste condizioni assolutamente allucinanti, perché le 8 ore erano state conquistate a Vercelli nel 1906 fino a diventare legge nel 23. Il problema delle 12 ore, anche di più, perché alcune erano anche 15 ore dalle ricerche che avevamo fatto, quindi c'è veramente una roba allucinante. E in mezzo chiaramente alle lordure del fango, sanguisughe, mia nonna aveva il terrore di queste bestie che se le staccava, mi diceva, con violenza. anche se alcune di loro le raccoglievano per portarle nelle farmacie, perché si raccoglie per le operazioni di salassi, quindi cioè ogni cosa veniva veramente presa per portare a casa due soldi proprio. Ecco, nonna Oriele è morta a 102 anni nel 2013, quindi ha fatto in tempo a raccontarle bene quei 40 giorni. Guarda, è stata una nonna meravigliosa, una donna molto mite, quieta, infatti c'è tutta questa, diciamo così, rivalsa che a un certo punto le muove dentro, lo muove per l'amore e dell'amicizia nei confronti veramente di qualche cosa che è ingiusto, essendo lei molto religiosa, a differenza di tutta l'altra parte della mia famiglia, perché erano combattenti, partigiani, eccetera. Lei proprio non aveva nessuna così preferenza politica, lei voleva stare in pace, fare le cose giuste, la natura era la sua protagonista assoluta in tutte le fiabe che mi raccontava, e le fiabe popolari ovviamente, però lei proprio aveva questo carattere mite, quindi quando mi racconta mi racconta, per me è come se fosse ancora qua, mi raccontava queste cose proprio come delle, non so, dice: mi è venuta la rabbia, dice, no? Cioè che sentire che non diceva una brutta parola mia nonna. La rabbia era già la brutta parola, capisci? Quindi, è la rabbia di tutte quelle condizioni. Sì. E che manifestazioni sono state quindi quelle nelle campagne della primavera del 44, mosse da tutta quella rabbia? Il canto, perché non potevano parlare. Non potevano parlare, quindi il canto diventava veramente un comunicare qualcosa, una compagna che stava male, uno sciopero, perché le lasciavano cantare, perché il canto disturbava poco. L'importante era non parlare, perché altrimenti il caporale, quelli che che erano, insomma, usavano il bastone. Sulla mondina sola sfruttata, sola proletaria che giammai tremo, mi hanno ucciso e catenata, carcere e violenza nulla mi fermo, i nostri corpi sulle rotaie, ma abbiamo fermato il nostro sfruttator. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. Noi lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà, e creeremo civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su. Dall'eccellenza Molinella alla testa della nostra gioventù. Se qualcuno vuol far la guerra, tutti quanti uniti noi la fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. Vogliamo la pace sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. È in corso al complesso del Baraccano a Bologna fino al 25 aprile la mostra La memoria del futuro, glossario di pace, una mostra curata da Sara Colaone, che è fumettista, illustratrice e docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e da Francesca Vaccari. Buongiorno Sara Colaone. Buongiorno a voi. Ecco, già nel titolo della mostra ci sono delle parole molto importanti, che tra l'altro sono di grande attualità, e che inquadrano bene, direi, il progetto che ha coinvolto studenti e studentesse dell'Accademia. Di che cosa si tratta Si tratta di una mostra che è la prosecuzione di un progetto iniziato 2 anni fa appunto a cura di Francesca Vaccari in collaborazione con Laura Rossi dell'Associazione Italiana Storia Orale e che ha visto la partecipazione di importanti istituzioni come l'Istituto per la Memoria Parri della Resistenza, Emilia Romagna e una serie di appunto di altri attori che hanno lavorato per recuperare, trascrivere, registrare tutte quelle memorie dei testimoni che sono stati bambini durante la liberazione a Bologna e che hanno desiderato così fissare un momento molto importante del loro ricordo in una chiave personale e che potesse avere la funzione di sensibilizzare da una parte, come dice il titolo di questa iniziativa, all'importanza della memoria e del ricordo da parte dei testimoni, ma dall'altra anche una riflessione su quelle che sono le parole della pace. Il lavoro che abbiamo fatto noi con il biennio di illustrazione per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti è stato proprio quello di inserirci in questo discorso in un momento insomma che era abbastanza già avviato e ascoltare tutte le registrazioni fatte da Laura Rossi e le memorie anche trascritte e provare a interpretare con le immagini quelle che sono questi punti chiave. Sono delle parole molto affascinanti, i discorsi che i testimoni hanno fatto sono molto belli perché ci raccontano il paradosso di essere bambini durante una guerra come è stata la Seconda Guerra Mondiale, come è stato il periodo fra proprio della fine della Seconda Guerra Mondiale che come sappiamo a Bologna è stato particolarmente cruento e problematico. In queste memorie entrano molti elementi trasversali, gli elementi della vita quotidiana che si scontrano con uno scenario di guerra, quindi non si parla semplicemente solo di resistenza, non si parla solo di soldati, ma si parla anche di che cosa significava giocare con i giochi o proposti dalla propaganda oppure trovati a volte in mezzo alle macerie, il famoso episodio delle schegge che diventavano degli elementi di gioco per i bambini dell'epoca. Si tratta in sostanza di restituire con le immagini un'immediatezza, anche ad uso dei visitatori adulti e giovani, proprio di questa dimensione dell'essere bambini. Gli studenti e le studentesse hanno proprio lavorato in questo senso, ascoltando, recuperando e anche metaforizzando diversi elementi raccontati dai testimoni. Questi testimoni naturalmente sono registrazioni di anziani e l'impatto con i ragazzi, perché c'è anche un impatto emozionale immagino forte, perché un conto è leggere una storia, un conto è ascoltarla dalla viva voce dei protagonisti. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati ospitati durante un incontro proprio con le persone che hanno lasciato la loro testimonianza alla casa di quartiere Stella in Santo Stefano e quello è stato il momento che gli studenti hanno ricordato con maggior forza. Alla fine di questo incontro si sono tutti abbracciati, continuavano a raccontarsi momenti di vita che sono stati significativi e soprattutto si vedeva molto chiaramente come nell'incontro le memorie fossero arricchite da sfumature che erano proprio dettate dall'urgenza di parlare con delle persone giovani. Gli studenti hanno capito perfettamente qual è stato il valore di questa iniziativa, infatti nelle immagini hanno cercato di trasfondere non solamente la loro bravura tecnica, non solamente la capacità interpretativa, ma anche degli aspetti estremamente intimi, che erano quelli che i testimoni hanno loro trasmesso, ma soprattutto si sono fatti portatori di quello che è stato uno degli elementi più, a mio parere, rilevanti di questa iniziativa, cioè hanno esercitato il diritto alla memoria, cioè si sono appropriati di un'idea che la memoria non è un qualche cosa di accessorio, ma è uno strumento fondamentale per affrontare sia il presente che il futuro e quindi con queste immagini le hanno trasmesse. Aggiungo un'osservazione, è che a questo progetto hanno collaborato molte studentesse provenienti anche da paesi europei e addirittura extraeuropei, abbiamo avuto una studentessa iraniana, diverse studentesse belghe e francesi che hanno lavorato a questo progetto, ognuna delle quali ha portato una sua interpretazione e una sua visione, ma tutte appunto accomunate dall'esercizio di questa riflessione sulla memoria come dato del quotidiano e del nostro futuro. Quindi è stato un lavoro che ha un valore sicuramente formativo molto alto, oltre che un valore storico. Sì, tutte le immagini sono state organizzate secondo un criterio voluto da Francesca Vaccari e da Laura Rossi, Rossic era proprio quello di seguire una linea del tempo per facilitare un po' la collocazione di queste parole che hanno ispirato gli studenti. Come dicevo prima, le parole sono le più svariate, vanno dal dramma della guerra al quotidiano, ma anche all'urgenza, al bisogno di ripristinare una vita normale. La cosa interessante è che questa linea del tempo che abbiamo costruito intorno agli eventi più importanti è stata resa attraverso proprio un filo rosso che è stato fatto passare attraverso le parete, attraverso le tavole, ed è corredata di quelle informazioni storiche essenziali per fare in modo che i lettori possano ritrovare quegli elementi di storia condivisa, oltre degli approfondimenti che riguardano proprio delle figure importanti che hanno determinato poi alcune riflessioni utili a decodificare il processo di racconto attraverso le immagini. Oh.